1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:17 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, forza, lo schema Allegri è sempre quello più valido, dai, fuori dai letti, su dalle poltrone, dalle sedie, in macchina, in treno, a piedi, in bicicletta, in moto, insomma, andate a lavorare, debosciati d'Italia. Allora, oggi parleremo di che cosa? Beh, abbiamo letto anche dai giornali che l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per i pagamenti in ritardo della pubblica amministrazione. Oggi racconteremo la storia di un imprenditore, uno dei tanti che lavora e ha tanti debiti con la pubblica amministrazione, milioni e milioni, e non riesce a ottenerli. E è un gran classico. Così come torneremo sulla questione dei vitalizi per i politici, ci concentreremo su quello che è successo in Puglia, dove, cari italiani, a voi non bloccano e non aumentano le pensioni? Pare che all'ultimo anno ci sia stata una rivalutazione dei vitalizi degli ex parlamentari, o meglio, consiglieri regionali della Puglia, del 3,09%, così all'anno, pam, più 3,09%, deciso da loro stessi, ovviamente, se li aumentano. Va bene, questo alle 8:15, ora andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. È martedì 4 febbraio e cominciamo dai titoli. Il Sole 24 Ore apre sulla vicenda Alitalia Etihad, accordo a un passo, questo è il titolo, sì dalle banche a un prestito da 165 milioni, anche per il Messaggero, privatizzazioni con gli emiri, questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, corruzione peso da 60 miliardi, la prima notizia che vedremo tra poco, così anche per Avvenire pesano corruzione ed eccesso di fisco. E poi la vicenda degli insulti nella politica che non si placa, Repubblica tutti contro Grillo, barbarie, si ribellano 4 senatori 5 Stelle, basta violenze sul web. Per la Stampa, Letta offensiva contro i grillini, una barbarie. Il Fatto Quotidiano, opposizione Movimento 5 Stelle eversiva, la Boldrini incompatibile. Dunque invece il Fatto se la prende con Laura Boldrini, non più super partes, secondo il Fatto. Il Manifesto, motivi di schermo. La violenta bagarre dei 5 Stelle diventa un cortocircuito mediatico tra Twitter, giornali e talk show. L'Unità, la battaglia delle alleanze, dunque la vicenda politica, con Maroni che è contro il rientro di Casini nel centrodestra, mentre il giornale Stato insolvente, fuori i soldi, Letta, è proprio la questione dei debiti della pubblica amministrazione, mentre Libero, la pensione a 55 anni è riservata ai politici. Solo ai politici, una inchiesta sulla pensione a quell'età. Come dicevamo, però, il tema della corruzione è stato acceso un faro dall'Unione Europea sulla corruzione in Italia. Pensate che la corruzione, secondo il primo dato dell'Eurobarometro e secondo una valutazione della Commissione Europea, vale 120 miliardi in Europa. Indovinate metà di questi miliardi dove sono? Ben metà, 60 miliardi in Italia. Donatella Stasio, prima pagina del Sole, in fatto di corruzione tutta l'Europa è paese, verrebbe voglia di dire parafrasando un vecchio proverbio. Il primo report della Commissione Europea su questo tema rivela che nessuno dei 28 stati membri dell'Unione Europea è indenne da questa piaga, che costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro l'anno. Quanto all'Italia, la legge anticorruzione del 2012, pur definita un importante passo avanti, ha lasciato una marea di problemi irrisolti come prescrizione, falso in bilancio, autoriciclaggio, voto di scambio, concussione, molto altro ancora. Ma la percezione è di 60 miliardi, pari al 4% del PIL, è una stima fatta dalla Corte dei Conti, di costo della corruzione nel nostro paese. Pensate che il 97% degli italiani, 97 su 100, pensano che la corruzione sia un fenomeno nazionale dilagante. quasi 2 cittadini europei su 3, e l'88% dei cittadini italiani ritiene che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più facile per accedere a una serie di servizi pubblici. Il 92% delle imprese italiane partecipanti al sondaggio ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia. Il 90% pensa che corruzione e raccomandazioni siano spesso il modo più semplice per accedere a servizi pubblici, la media europea del 69%, mentre per il 64% delle risposte le conoscenze politiche sono l'unico modo per riuscire negli affari, questo in Italia. Che bella fotografia, eh? Tra l'altro Gian Antonio Stella su questo tema in prima pagina del Corriere della Sera si dedica sulla Authority, che ha cambiato 3 nomi ma non ha cambiato né poteri né presidenti e non ha risolto, scrive Gian Antonio Stella, nulla. Si concentra sulla CiVIT, ora ANAC, risultati nessuno, pagina 3 del Corriere della Sera. Dopo ce l'aveva chiesta l'Unione Europea la nascita di questa commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, CiVIT per l'appunto, competenze vaghe, risultati boh, scrive Stella. Fatto sta che nel 2012 col governo Monti arrivava la sospirata autorità anticorruzione con l'obiettivo di spostare l'asse della lotta alla corruzione dalla repressione alla prevenzione. Applausi corali, evviva, finalmente, risultati boh. Finché mesi e mesi dopo il Sole 24 Ore, raccontando il passaggio gestito da Giampiero Daglia dalla CiVIT all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ultima sigla del tormentone, sbuffava giustamente per tutti gli anni di operazioni di montaggio e smontaggio di strutture analoghe. Insomma, risultati di questa Authority riassunti da Gian Antonio Stella così. Boh! Oh, cari italiani, continua la saga e il feuilleton rosa dell'Abruzzo, la Mandrilleide d'Abruzzo, come l'ha definita il Messaggero, perché spuntano 2 nuove notizie riguardanti la regione e il presidente della regione Gianni Chiodi e l'amante che poi è stata assunta con un contratto dalla regione stessa. Come racconta oggi 2 notizie, Giuseppe Caporale, prima pagina di Repubblica, beh già il titolo dice tutto, i favori del governatore, assunta anche la sorella dell'amante. E dunque siamo ai parenti, la regione Abruzzo, scrive Caporale, ha assunto la sorella della debolezza del governatore Chiodi. Simonetta Marinelli, parente della donna che ha trascorso col presidente una notte all'Hotel del Sole al Pantheon di Roma, meno di un mese dopo ha ottenuto un posto di lavoro. Il 2 aprile 2011 è stata assunta come addetta alla segreteria dell'assessorato al personale, un impiego pubblico a tempo determinato, tutto scritto in un atto della regione. Sì, è mia sorella, conferma Letizia Marinelli rispondendo al telefono con voce rotta dal pianto a Repubblica. Adesso tirate in ballo pure lei. Posso solo dire che lavora per un assessorato diverso da quello da cui dipendo io. E insomma anche la sorella. Tra l'altro Antonio Massari invece sul Fatto Quotidiano, che ha fatto un po' partire questa vicenda, va a esplorare sempre più nella vita di Gianni Chiodi. Tutte donne di Chiodi, la sorella dell'amante ottiene un contratto. Scrive Massari, non solo la donna che dormì con lui a spese pubbliche il 15 marzo 2011, ma anche sua sorella fu assunta con contratto a tempo determinato. Quell'assunzione, e qui viene il di più, lo scavare ancora di più, quell'assunzione avvenne per mano di Federica Carpineta, assessore al personale alle politiche di genere, che suo marito definisce un'amica molto particolare del presidente Chiodi. Tanto che per il Fatto Teramano si chiede, è lei l'altra amante di Chiodi? Cioè diventerebbero 2 le amanti. Vabbè, ma questa vicenda sta diventando, ovviamente sta esondando ormai dalle questioni pubbliche a questioni veramente da romanzo rosa. Abbiamo chiesto conferma al marito dell'assessore, che dice posso soltanto definire mia moglie un'amica molto particolare del governatore. Ci ha risposto parlando di momento di grande amarezza per la mia situazione coniugale. Una situazione, scrive il Fatto, che va verso il divorzio e che assume ancora una volta un connotato pubblico. L'amica molto particolare del presidente Chiodi, infatti, in qualità di assessore, assume con chiamata diretta la sorella dell'amante di Chiodi. Vabbè, voi capite che mi devo fermare qui, comunque tutto sul Fatto Quotidiano, pagina 11, perché si rischia anche di perdere, insomma, il senso di chi sta con chi a questo punto. Vabbè, in tutto questo, cari italiani, due notizie che vi faranno certamente un po' arrabbiare. La prima, Libero si concentra, noi lo faremo anche sulla questione dei vitalizi, un'intera pagina sulla casta che va in pensione a 55 anni, per la verità non è una notizia nuova, però il titolo di Libero, per la casta la pensione resta a 55 anni, pagina 5, in quasi tutte le regioni i vitalizi sono stati aboliti, ma ovunque la nuova norma non riguarda l'assemblea che l'ha varata, vale per il futuro, e dunque in centinaia tra assessori e consiglieri fanno la coda per incassare il privilegio. È l'unico lavoro, dice Libero, la politica, che dà la possibilità ancora di andare in pensione a 55 anni. Cari italiani, magari voi siete degli esodati, ci state ascoltando, magari voi la pensione siete giovani, non la vedrete mai. Questo è. La seconda notizia riguarda sicuramente moltissimi automobilisti che ci stanno ascoltando in questo momento. Ricordate la vicenda dei famosi semafori T-Red. Quei semafori considerati erano soprattutto nel nord, nella provincia di Milano, ma erano in realtà distribuiti anche in altri comuni italiani. Quei semafori che erano considerati dei semafori vigliacchi, perché durava pochissimo l'arancione, e c'erano almeno 40.000 multe che sono state date, solo pensate, nel comune di Segrate, in provincia di Milano, 40.000 multe perché l'arancione durava pochissimo. Uno dice, beh, passo con l'arancione, zac, fotografia, targa, multa. Ebbene, ci sono stati dei ricorsi, eccetera. Sappiate, cari automobilisti, che il Tribunale di Milano ha assolto i semafori, cioè i semafori non c'entrano niente, ha assolto gli imprenditori, le persone dietro ai semafori T-Red, e dunque non verrà restituito neanche un euro agli automobilisti. Le multe sono considerate dal tribunale regolari e quindi vanno pagate. Giuseppe Guastella, pagina 18 del Corriere, il sogno di migliaia di automobilisti di veder condannato con ignominia il famigerato semaforo T-Red e per 150 di loro anche di godersi la soddisfazione di una multa annullata e condita da generoso risarcimento a carico del comune, si infrange con una sentenza del Tribunale di Milano. Altro che killer armati con mitragliatrici cariche a contravvenzione, quelli installati su un tratto della statale Cassanese alla periferia di Segrate. Secondo il PM, per installare quelle tagliole elettroniche erano stati commessi reati del calibro dell'associazione a delinquere, dell'abuso d'ufficio, della turbativa d'asta, ma il Tribunale di Milano ha deciso che di irregolare nei semafori non c'era nulla e ha assolto sei degli imputati, il sindaco di Segrate Alessandrini, il comandante della polizia, il funzionario, gli imprenditori, condannati dunque, dando ragione all'accusa, a 4 anni l'imprenditore Raul Cairoli e a 1 anno con la sospensione della pena Giuseppe Astorri, direttore commerciale della SCA SPA, la società che si era aggiudicata la gara. Tutto ciò ha creato grande scandalo per l'opinione pubblica, ma nessun risarcimento e i semafori sono regolari e le multe da pagare anche sul Quotidiano Nazionale. Assolti i semafori vampiro, gli automobilisti multati non vedranno un centesimo. Contenti? Ripartiamo con la politica degli insulti dopo la pubblicità. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, la politica è la politica dell'insulto. Ancora oggi, cari italiani, ci sono paginate di questa vicenda che ormai è uscita fuori dal controllo, no? Tra cortocircuito di trasmissioni televisive, Twitter contro Twitter, risposte su Facebook, insulti, fascisti, sfascisti, accuse sessuali, accuse sessiste. Nuovi attacchi di Grillo, stop di Letta. Ieri, pensate, Enrico Letta, questa è una cosa abbastanza incredibile a mio modo di vedere, il presidente del Consiglio che si trova negli Emirati Arabi Uniti, a Doha, si trova poi in Qatar a parlare di tematiche importanti, di come invitare gli emiri a cercare di entrare nell'Italia, di come invitare gli emiri a parlare di come investire in Italia. Che ha detto Enrico Letta? Ha detto: una sola cosa dico, commento qui, da qui, quello che sta succedendo in Italia. Di solito i presidenti del Consiglio, quando sono all'estero, non commentano le vicende interne. Una sola cosa commento: gli attacchi di alcuni esponenti di Beppe Grillo a Daria Bignardi. Ma cioè, ma è possibile che il presidente del Consiglio, l'unica cosa che deve commentare dall'estero dell'Italia, sono gli attacchi, gli insulti a Daria Bignardi? Mi è sembrata una cosa abbastanza incredibile. Sta di fatto: nuovi attacchi di Grillo, stop di Letta. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 7. Ieri la cronaca, che cosa c'ha in questo impazzimento generale, cosa ha regalato, come racconta il Corriere della Sera con Alessandro Trocino a pagina 6, sotto il titolo Movimento 5 Stelle, insulti e un falso tweet, Letta, una barbarie senza fine. Ci ha pensato ieri Rocco Casalino, che è rappresentante e fa parte del Movimento 5 Stelle, colui che cura anche l'immagine, tutela, come lui stesso dice a Repubblica, difende i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Se l'è presa proprio con Daria Bignardi. L'oggetto è l'intervista che era stata fatta Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle nell'ultima edizione delle invasioni barbariche. E che è successo? A Rocco Casalino non è piaciuto quelle domande insistenti di Daria Bignardi sul padre, il padre di Alessandro Di Battista, che si è proclamato anche alla Zanzara di Radio 24 fascista. E allora Rocco Casalino ha scritto una lettera a Daria Bignardi chiedendo: come sarebbe per te, Daria Bignardi, se ti chiedessero ripetutamente come si sente tuo figlio a scuola ad avere il nonno mandante di un assassino, di un assassinio, perché il nonno, insomma, il suocero di Daria Bignardi, Adriano Sofri. E qui è partito l'impazzimento. Rocco Casalino fa due interviste sulla Stampa e Repubblica. Sulla Stampa: Rocco contro Daria, così ho messo fine al mio passato al Grande Fratello, perché attenzione, lo ricordate, no? L'abbiamo fatto sentire alle 6.30. Rocco Casalino era nell'edizione del primo, la prima edizione del Grande Fratello, condotto da Daria Bignardi, e ora lui dice: la consideravo un'amica, fu la prima a intervistarmi quando uscii dalla casa. E adesso ci confrontiamo su un piano diverso. Di lei mi fidavo, invece ci ha teso una trappola. Sì, è vero, io sono stato becero nel mio post. È vero, ma lei è stata becera. Noi siamo state vittime di un trattamento violento. Ho cercato di farle capire come ci si sente in certi momenti. Così dice ad Andrea Malaguti. E su Repubblica, intervistata da Tommaso Ciriaco, intervistato da Tommaso Ciriaco, Rocco Casalino dice: sì, è vero, sono stato violento, ma se c'è da lottare, io lotto. Il mio messaggio era violento, ma era per far capire a Daria Bignardi come lo è. Sono stati i suoi di messaggi. È stato un paradosso, non avrei mai messo in mezzo il suocero. Ma ricordi, sono un attivista e un professionista. Prima di tutto, però, attivista. Se c'è da lottare, lotto. Al che Repubblica dice: ma mi scusi, qual è il problema? Ma certo, ha fatto un'intervista a Di Battista, poi ha fatto un'intervista ad Augias, che invece di parlare del libro ha parlato del fascismo del Movimento 5 Stelle. Ma scusi, lei vuol decidere anche le domande per gli altri ospiti? Chiede Repubblica a Rocco Casalino. Ma magari uno non va in trasmissione evitando un contesto non consono. D'altra parte, il mio lavoro è questo: proteggere i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Comunque le ho mandato un messaggio dicendo: se ti invito di parlare di te e poi ti chiedo di tuo suocero, come la prendi? Ho utilizzato, insomma, il suo metro. E dire che l'avevo vista a marzo mi sembrava molto positiva, quasi grillina, pronta a raccontare il movimento in modo giusto. Insomma, si è rotto qualcosa definitivamente tra Rocco Casalino e Daria Bignardi. In tutto questo Laura Boldrini viene attaccata dal Fatto Quotidiano, il titolo a pagina 4, il Fatto Quotidiano dedica praticamente le prime 4 pagine interne a questa vicenda, questo per far capire a che livello ormai è scesa la politica in questi giorni come discussione. Boldrini si deve dimettere, il Movimento 5 Stelle va alla guerra totale. Ci sono anche alcuni del Movimento 5 Stelle, come la deputata Jessica Rostellato, intervistata da Repubblica, che dice: vergogna, non voterò più il mio movimento, una cosa è certa, non lo voterò alle prossime elezioni europee, lo vede cosa siamo diventati? Io comunque non vado via, sono loro che devono farlo. E se la prende con il deputato Sorial, quello che ha detto il boia napolitano, Messora, che è il responsabile della comunicazione al Senato del Movimento, e poi Tofalo e De Rosa. De Rosa è quello che ha dato delle pompinare, insomma, quelle del PD, e questo è il dato di fatto. Lo stesso Messora, tra l'altro, fa un'intervista, perché anche lui, responsabile comunicazione al Senato del Movimento 5 Stelle, è finito nella bufera perché ha detto, di fronte all'accusa di Laura Boldrini, potenziali stupratori sul blog, ha scritto, per poi scusarsene: ma tu stai tranquilla, cara Laura, tu non corri pericolo, anche se fossimo potenziali stupratori. Ora si difende, intervistato da Emanuele Buzzi, dice: ma sì, è stata solo una battuta di mezzanotte. Comunque incredibile, la rete per i media non conta nulla quando bisogna finanziare la banda larga e sostenere l'informazione libera, mentre un tweet a mezzanotte nella tua community può diventare un caso politico. Comunque chiedo scusa, era un tweet dettato da profonda amarezza nel vedere come viene trattata un'opposizione votata da 9 milioni di persone. Voleva essere una battuta, ma è stata una battuta infelice, fuori luogo, che certo non è stata presa come tale e di cui chiedo scusa. Ah, chissà quando potremo derubricare questa vicenda. Ben presto, spero. Intanto la politica si interroga anche. Il movimento più interessante è quell'intervista di Casini che dice: sono pronto a tornare con Berlusconi, sono pronto a tornare nel centrodestra. E qui il dibattito è da giorni sui giornali. Il Cavaliere allarga l'alleanza, Casini è il benvenuto, così ha risposto Berlusconi, anche perché l'idea è, insieme a Casini, a Pier Ferdinando Casini, di tornare a recuperare quella soglia del 37% che assicura Berlusconi, mettendo insieme Forza Italia, Alfano come alleanza, Casini, insomma ricostituendo il centrodestra. Spera Berlusconi di poter alle prossime elezioni vincere al primo turno, raggiungendo la soglia del 37%, quella che con la nuova legge elettorale che si farà darà il premio di maggioranza. La Lega però non ci sta, nel senso che Maroni ferma questo possibile nuova alleanza senza un progetto comune, stia fuori Casini. Così l'Unità, ma come tutti i giornali, con Federica Fantozzi a pagina 3, fa sapere che Casini, che Maroni e quindi la Lega è contro l'eventuale inclusione di Casini. Sta di fatto che anche qui la politica si interroga su questi movimenti. Cose di poco conto per i cittadini comuni, caro Mauro Meazza, o no, mi sbaglio? Ma non saprei, me lo chiedi in qualità di cittadino comune? Ma no, ma sì, ma in qualità di attento osservatore, cosa ti devo dire? Osservatore. Tra gli insulti e i movimenti per le future coalizioni, per le futuribili elezioni, io veramente... Io ti consiglierei un ripassino sulle imposte locali, Alessandro. Per rendermi un po' allegro, mamma mia, ma, ragazzi. Ma per sapere, insomma, anche per prepararsi. Quasi per essere più allegro mi rivedo la finale Liverpool-Milan di Champions League, guarda, ti dico questo. Guarda, nelle pagine del Sole 24 Ore di oggi ci sono due pagine di quelle tutto casa, sai, che stiamo pubblicando in queste settimane. Ecco, questa volta l'uscita è dedicata alle imposte locali. Se ci hai capito poco, IMU, TASI, TARI, IUC e così via, ecco, tu guarda, in formato molto stringato, diciamo, ti raccontiamo che cosa sta succedendo e quanto dovremo pagare, insomma. Benissimo, questo è un po' il nostro contributo al dibattito, per così dire, perché il dibattito è ancora in corso. Certo, della corruzione ho già parlato, insomma è un tema molto importante, e l'altro tema con cui apre il Sole 24 Ore è quello degli emiri, insomma l'Italia Etihad, ormai siamo a un passo, no, del possibile. Siamo molto prossimi a quanto pare al capitale, persino la vignetta di Domenico Rosa, che consiglio sempre ai nostri lettori di dare un'occhiata alle vignette di Domenico Rosa, sono molto carine. Peccato che in radio non si possano mostrare, ma anche perché sono spesso senza parole, sono solo basate sul disegno, però guardate, insomma, la pagina dei commenti. Sì, l'Intesa un passo, e poi con questa grande ricostruzione sui collegamenti internazionali, quella che fa Gianni Dragoni in pagina 3, con tanto di cartine, appunto, con i movimenti sui collegamenti internazionali che si stanno facendo. Oh, mi raccomando, a proposito di internazionale, il rientro dei capitali, i tuoi 2 euro che hai lasciato lì dimenticati fuori senza dirlo a Befera. No, beh, chiaro. Adesso gli hai detto tu, però ti ringrazio. No, ma guarda, li puoi riportare, però stanno preparando, lo spieghiamo nelle pagine di norme e tributi, stanno preparando i provvedimenti attuativi, probabilmente ci sarà anche una consultazione con le categorie, con i professionisti, quindi verranno sentiti i commercialisti, gli avvocati, mi immagino, insomma ci sarà una sorta di controllo prima del varo. E poi c'è una sentenza della Cassazione su Google, te la ricordi la storia del video del ragazzo disabile? Questa come cosa, no, vergognosa. Certo, che fu postata per prenderlo in giro e fu diffusa. Sì, in primo grado il tribunale disse sono colpevoli anche i responsabili di Google per aver ospitato il video, poi in appello e adesso in Cassazione si conferma no, non c'è responsabilità del provider, insomma la responsabilità è di chi mette il video e basta. Beh, il provider risponde solo se non elimina rapidamente il contenuto. Questa è una sentenza che fa anche molto discutere, apre un dibattito. Va letto il contributo dell'articolo di Giovanni Negri sul punto, da meditare per tutti coloro, insomma, non solo, visto parlavi di Twitter prima, quello che sfugge un po'. L'internet sembra un luogo proprio di voci dal sen fuggite e non solo voci. Eh no, è chiaro. Ecco, io allora, Mauro, ti ringrazio, ci ritroviamo ovviamente domattina e andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, prima di concentrarci ancora su Alitalia e Etihad, un'altra notizia che riguarda Berlusconi è una notizia che ha solo Repubblica, pagina 9, la firma di Goffredo De Marchis, il titolo è questo: il Senato parte civile contro Silvio per la compravendita dei senatori. È una decisione che deve essere presa in Camera, in Presidenza, nell'ufficio di Presidenza del Senato, e cioè se il Senato si debba o no costituire parte civile nel processo contro Silvio Berlusconi, che c'è a Napoli, per la presunta compravendita dei senatori, cioè il caso De Gregorio. In quel caso il Senato potrebbe costituirsi parte civile. Berlusconi, fa sapere Repubblica, ha già lasciato intendere che questa verrebbe considerata da lui una dichiarazione di guerra. Volete fare la riforma con me e poi mi mettete un dito nell'occhio in tribunale? Sappiate che posso sempre far saltare tutto. Questo, secondo Repubblica, fa sapere da qualche giorno Silvio Berlusconi, sta di fatto che l'annuncio è in una risposta che Pietro Grasso, presidente del Senato, ha dato in una lettera ad Antonio Di Pietro, che ha annusato l'ennesimo conflitto di interessi. Ha detto Pietro Grasso in questa lettera: la costituzione di parte civile nel procedimento sulla compravendita dei senatori era già all'ordine del giorno del Consiglio di Presidenza fissato per il prossimo mercoledì, cioè domani, al termine della seduta antimeridiana. Non c'è alcun riferimento diretto a Berlusconi, ma il punto è quello. Il punto è, cioè, il Senato deve costituirsi parte civile contro Berlusconi, che è decaduto dal Senato per il processo in cui l'ex presidente del Consiglio Berlusconi è imputato a Napoli per la compravendita dei senatori, il caso De Gregorio. È chiaro che questo costituirebbe, in caso di decisione positiva, un problema sicuramente i rapporti con Berlusconi. Riguardo invece alla vicenda Alitalia Etihad, detto di tutti i particolari, come ha detto Mauro Meazza, che trovate sul Sole 24 Ore col commento anche di Gianni Dragoni, vi segnalo anche sulla stampa l'intervista al ministro dei trasporti Lupi, intervistata a pagina 5 da Alessandro Barbera. Se la prende soprattutto con Lufthansa, che ha accusato questi sono aiuti di Stato perché c'è una mediazione del governo italiano per agevolare la vicenda. Lupi si difende così: la Germania, i tedeschi speravano nel fallimento di Alitalia, dividersi le spoglie del nostro mercato trasformando i nostri aeroporti in piccoli scali per alimentare il traffico su Francoforte e Monaco. La nostra mediazione sarebbe un vulnus alla concorrenza, un aiuto di Stato mascherato, ma non scherziamo. Alitalia e Etihad sono due imprese private, il governo si limita a svolgere un ruolo di supporto coerente a una strategia infrastrutturale. Per caso francesi e tedeschi hanno mai fatto qualcosa di diverso? Si dimentichino di invocare l'Europa per limitare l'apertura alla concorrenza. A Bruxelles troveranno una fiera opposizione, dunque lupi contro i tedeschi. Oh, la cronaca è piena sui giornali, alcuni giornali aprono anche su questa, su questo intervento spettacolare e drammatico al tempo stesso, ieri per liberare Domenico Cutrì, condannato all'ergastolo, è stato anche liberato nella sparatoria con l'assalto al furgone della polizia penitenziaria che lo trasportava, è stato ucciso il fratello di questo ergastolano, muore a 30 anni per far evadere il fratello, pagina 2-3, succede a Gallarate, sono sulla Stampa, ma tutti i giornali dedicano paginate a questa vicenda di questo ergastolano che si trova in fuga in questo momento e che è stato liberato appunto. È una persona che ha alle spalle un ergastolo, che ha un ergastolo da scontare per l'uccisione di un uomo che aveva avuto il solo sgarbo di guardare male con un'occhiata la sua fidanzata. Di cronaca segnalo anche una vicenda che sembra uscita da un film, in realtà è realtà, il film è Cast Away, protagonista Tom Hanks, ricordate la storia del naufrago per mesi, forse anni, non lo so, rimasto su un'isola deserta, avviene a José Alvarenga. Come racconta la Stampa, pagina 21, sono vivo grazie a squali e tartarughe. È rimasto 13 mesi alla deriva nel Pacifico con un compagno che è morto dopo 4 settimane. Era un pescatore salpato dal Messico, preso da una tempesta. Poi la barca si è rotto il motore, è andato alla deriva dal Messico, è stato trovato alle isole Marshall. È rimasto 13 mesi in mare. C'è qualcuno che non gli crede perché si è presentato un po' paffuto, ma altri medici dicono: ma no, è normale gonfiarsi, ha fatto di tutto, ha bevuto la sua urina, ha mangiato il sangue delle tartarughe, ha mangiato gli uccelli che si fermavano lì e prendeva con le mani, ha ucciso gli squali, era un pescatore di squali, dice: mettevo il braccio in acqua, si avvicinavano per mordermi e io trac li prendevo per la coda, sono sopravvissuto così 13 mesi credendo in Dio, pregando e sperando di tornare a casa. Ce l'ha fatta José Alvarenga, 13 mesi su una barca. Un anno, abbondante. Vabbè, la sua storia la trovate sulla Stampa. Vi ricordo invece in conclusione l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince ancora il giornale con la carta costa. Mezza pagina dedicata a quell'Italia che si riprende sotto le coperte, si fanno i video porno e c'è la storia Cristiano Gatti del fidanzato di Ischia che pubblica il video con l'ex e poi si pente, il fiscalista di Padova che a 75 anni tira fuori il bottino di tutte le sue imprese sessuali, ma vi rendete conto? Dedicare mezza pagina a questo, la carta costa, ma non se ne accorgono, il giornale radio.